Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a Salva Danaio da Deborah Rosciani. Come è iniziato l'anno per i mercati finanziari internazionali? Questo è un tema sul quale noi vi aggiorniamo tutte le ore, quindi lo saprete bene, ma ci è sembrato utile cominciare già a fare un punto della situazione. È iniziato bene e male. C'è stata una partenza a razzo per le borse nelle primissime giornate dell'anno e poi una repentina marcia indietro per le borse che ancora reagiscono, naturalmente come sempre fanno, ai dati economici e alle notizie in chiaroscuro che arrivano ogni giorno. Abbiamo avuto il piano di Barack Obama per il rilancio dell'economia, non ce lo abbiamo ancora, comunque è stato annunciato, dovrà passare al vaglio del Congresso statunitense. C'è la crisi dei consumi che è imperversa, ci sono ancora le banche in forte difficoltà al punto da necessitare di interventi governativi, come è accaduto ieri in Germania per Commerzbank, e questo insomma tanto per citare alcuni temi. Hanno suscitato nelle ultime giornate comunque una certa curiosità i movimenti di Piazza Affari, che si è subito messa in luce all'inizio dell'anno muovendosi meglio delle altre borse e in giornate negative perdendo un po' meno. Oggi già dobbiamo subito smentire questa tendenza, perché in realtà in un quadro incerto fra le borse del vecchio continente Milano perde e perde molto più delle altre, meno 1,43% adesso sull'S&P MIB, è arrivata a perdere quasi 2 punti, poi naturalmente vi raccontiamo anche i motivi per cui la stanno trascinando, per cui la piazza italiana appunto viene trascinata a ribasso in maniera più significativa delle altre. Però tutto questo forse vale la pena di essere commentato, vale la pena analizzare l'andamento di Piazza Affari, perché ci sono già alcuni temi precisi sul quale il mercato si sta interrogando da qualche giorno, come per esempio la possibilità che si possa rimettere in moto il risico bancario, ma naturalmente non c'è solo questo, e allora oggi noi prenderemo a spunto anche questi temi, ma ne affronteremo anche altri con i nostri interlocutori, che saranno Massimo Rastelli, private banker di investitori SGR Gruppo Allianz. Rastelli, buongiorno e buon anno. Buongiorno a voi, buon anno. E buongiorno e buon anno anche a Matteo Ghilotti, responsabile della ricerca azionaria di Equita SIM. Ghilotti, buongiorno. Buongiorno a voi. Tra l'altro è del tutto casuale il fatto che l'abbiamo invitato a Salva Danaio, l'invito è stato fatto ieri, ma questa mattina devo dire che c'è un report che circola a Piazza Affari di Equita SIM che effettivamente ha un po' anche la responsabilità, tra virgolette, mi passi il termine, di questo ribasso di Milano. Poi magari con Ghilotti ne discuteremo. È un report su generali. Noi non abbiamo l'abitudine di commentare in maniera molto dettagliata l'andamento di singoli titoli a Piazza Affari con i nostri ospiti, però magari stamattina, visto che è una circostanza di cronaca, forse vale la pena tornarci e soffermarsi su questo punto per un attimo. Detto questo, però, ovviamente parleremo soprattutto delle prospettive per il 2009, partendo dai dati di questi giorni. 800 24 00 24, il numero verde per i vostri interventi se vi appassiona il tema dell'investimento azionario, ovviamente inevitabilmente intrecciato alla crisi di questo momento. 349 238 6666, il numero invece per i vostri messaggi. Oggi il quadro di borsa ve l'ho già dato, magari andiamo a dare un'occhiata anche agli altri temi di Piazza Affari. Abbiamo già detto chi stamattina sta portando verso il basso e in rosso i principali listini. Generali perde 3,5 punti, Unicredit meno 3, Bulgari meno 2,67, Luxottica meno 2,52, quindi abbiamo ancora una certa difficoltà nel settore del lusso, Lottomatica meno 2,52, ma in realtà forse possiamo parlare di una tendenza che, come vediamo, coinvolge titoli che hanno una bella esposizione del proprio fatturato e del proprio business in dollari, quindi con il movimento delle valute in questi giorni i titoli ne vengono inevitabilmente condizionati. Buzzi meno 2,29, Italcementi meno 2,58, abbiamo un calo di circa 2 punti anche per Mediobanca, per Intesa San Paolo, mentre il segno più è netto, molto evidente in questo momento, anzi c'è una fiammata abbastanza improvvisa da qualche minuto a questa parte sul Banco Popolare, tanto per tornare sui temi del risico bancario sul quali il mercato scommette, più 7%, segue il rialzo di Fiat più 2,55, Impregilo più 2%, Fastweb più 1,40%. Questo per quello che riguarda la seduta odierna, ma sentiamo un po' cosa è successo in questi giorni sui mercati. Se il buongiorno si vede dal mattino, il 2009 si è aperto sotto buoni auspici per quanto riguarda l'andamento dei mercati finanziari, reduci tuttavia da un anno da dimenticare. Fatta eccezione per i ribassi degli ultimi 2 giorni, le prime sedute del nuovo anno sono state infatti archiviate con il segno più da tutte le borse. La migliore per il momento è proprio Piazza Affari, con un incremento di poco inferiore al 6%, seguita da Francoforte e dalle principali borse asiatiche. Ad accendere i riflettori sul listino milanese è stato di recente il risico bancario che, nonostante le smentite da parte degli interessati, ha coinvolto in prima linea Mediobanca e Unicredit e in secondo luogo Banco Popolare e UbiBanca. Ma il peggio è davvero passato. Se la sensazione generale è che ci si voglia finalmente lasciare alle spalle la fase più difficile, secondo gli esperti le borse con ogni probabilità devono ancora toccare il minimo e in ogni caso, prima di scongiurare ogni pericolo, è bene aspettare gli effetti delle misure anticrisi varate dai governi e dagli istituti centrali. E così, dopo il taglio effettuato ieri dalla Banca d'Inghilterra, che ha portato il costo del denaro al minimo storico, al livello del 1694, le attese degli investitori si concentrano sulla riunione della Banca Centrale Europea, prevista per giovedì prossimo, che dovrebbe ridurre nuovamente i tassi di interesse. Sul fronte obbligazionario, invece, il 2009 è iniziato con segnali ambigui e preoccupanti, soprattutto se si considera che per l'anno in corso è attesa una vera e propria ondata di emissioni di titoli di Stato, dal valore di 3.000 miliardi di dollari. Una cifra in buona parte necessaria a finanziare i piani di salvataggio delle banche e di sostegno alle economie. E le prime avvisaglie non sono incoraggianti, considerato che l'ultima asta sui pregiati Bund tedeschi a 10 anni, titoli generalmente considerati tra i più sicuri, ha registrato domande inferiori all'offerta. Le parole d'ordine per gli investitori, dunque, non cambiano neppure per il 2009. Servono ancora una volta cautela e diversificazione, in attesa che si delinei uno scenario più stabile e incoraggiante. Cautela, naturalmente, la parola d'ordine che deve comunque essere adottata anche nelle fasi migliori di mercato. Questo ci sentiamo sempre di doverlo raccomandare. Allora, Massimo Rastelli, private banker, investitori SGR, gruppo Allianz, la vogliamo dare o no? È possibile darla una definizione a questo anno appena iniziato? Vi piace o meno quello che state vedendo? Le borse sono ancora piuttosto ballerine, ma sicuramente rispetto alla volatilità che abbiamo visto fra settembre ed ottobre, quando le borse facevano in certe giornate più 8 e il giorno dopo meno 10, già questo è un segnale incoraggiante. C'è adesso, sicuramente almeno da questo punto di vista, un po' più di serenità sui mercati. Sì, direi che questa è un buon punto di partenza per fare un ragionamento sulla possibilità che il 2009 sia un anno di ripresa. Nessun mercato azionario può ripartire o lasciare i suoi minimi senza un calo della volatilità. Noi a novembre abbiamo visto l'indicatore VIX che esprime la volatilità implicita nelle opzioni raggiungere le cifre astronomiche di 80 e rifarlo circa un paio di volte. Oggi siamo ritornati intorno a 40, vuol dire che appunto si è dimezzata e quindi esprime una maggior virgolette tranquillità sulle oscillazioni possibili dei titoli azionari. Questo è un indicatore assolutamente positivo perché non si riparte senza un calo della volatilità. Volendo poi, cogliendo un po' lo spirito della sua domanda, cioè vedere quali sono gli altri elementi tranquillizzanti, però non vorrei anticipare il tema. Poi li metto subito a confronto con magari le riflessioni di Ghilotti, quindi perché no? Cerchiamo di intercettarli subito, anche perché siccome molto spesso negli ultimi mesi siamo stati accusati, tra virgolette, forse hanno anche avuto ragione gli ascoltatori, di enfatizzare molto spesso solamente le tendenze negative, le cattive notizie. Allora, se già qualche segnale positivo lo vedete, cerchiamo magari di metterlo subito in evidenza, così diamo anche questo messaggio rassicurante generale. Poi, chiaramente, abbiamo anche visto nel corso dell'anno scorso quante volte tutte le vostre previsioni sono state smentite, ma è stato un anno terribile per tutti, per cui il mea culpa anche da parte dei professionisti del risparmio, degli investimenti, è stato ampiamente fatto, quindi per oggi almeno accantonerei questo aspetto del nostro tema. Comunque. Certo, direi che dopo il fallimento di Lehman è chiaro che tutti hanno dovuto in qualche modo abbracciare un relativismo, no? nelle proprie convinzioni, perché lì è crollato un po' l'impalcatura. Ma dicevo, volendo analizzare altri elementi confortanti che hanno preso un segno decisamente opposto rispetto al finale del 2008, direi Euribor. Sì, è pur vero che i tassi di riferimento generali sono scesi, l'Euribor è sceso molto di più, l'Euribor era uno degli indicatori di inquietudine assoluta nel sistema bancario, siamo arrivati a un trimestrale al 5,5, è dimezzato, quindi le banche in qualche modo sono tornate a fidarsi reciprocamente. La scadenza a tre mesi, tanto per cogliere il suo spunto, è al 2,69% ecco, questa mattina. Sì. Ecco. Quindi da qui ne deriva che la rata dei mutui su cui vengono calcolati appunto, che vengono calcolati appunto sull'Euribor, è più leggera e quindi l'impatto sul consumatori è di segno indiscutibilmente positivo. Poi insomma si è visto anche un discreto andamento dei consumi natalizi, altro tema che era citato come fortemente a rischio, quindi anche quello lo vedo come un elemento tranquillizzante. E in ultimo, ma poi lascio la parola volentieri, noi abbiamo assistito anche a nel momento di panico estremo anche a dei rendimenti da parte di obbligazioni societarie non, come dire, di seconda qualità, ma di primissima qualità, delle tripla A, faccio l'esempio sempre della General Electric, che erano arrivate a quotare, a rendere a un anno in euro il 12,5%. Ecco, oggi si fa molta fatica a trovare quegli stessi titoli con rendimenti intorno al 7,5%. Di questo tipo. Quindi ecco, anche questo insomma è un segnale che secondo lei dà la misura di un tentativo di ritorno alla normalità. Forse non siamo alla normalità perché abbiamo di fronte a noi un anno che sarà piuttosto difficile e abbiamo visto ancora come per esempio i governi siano impegnati anche nella ricerca di soluzioni per appunto dare tranquillità al mercato. Non ultimo proprio l'intervento deciso ieri dal governo tedesco per entrare nel capitale di Commerzbank, una ricapitalizzazione importante che appunto ribadisco ancora una volta dalla misura di come la guardia non si sia affatto abbassata. Matteo Ghilotti, vengo subito a lei, poi naturalmente se vorrà commenteremo anche la questione di Generali, però adesso riprenderei i temi che sono stati affrontati con Rastelli. Tra i vari punti e i vari spunti che Rastelli ci ha dato da commentare questa mattina, come temi rassicuranti di mercato, quindi la volatilità che si è dimezzata, i tassi interbancari che stanno ritornando su una strada di normalità, segnale che tra le banche sta ritornando un po' di fiducia, anche se forse non è ancora nella misura corretta e fisiologica, i consumi, forse Rastelli ha parlato prevalentemente del nostro paese, che tutto sommato hanno retto in Natale, quello che si è visto anche come tendenze sul mercato obbligazionario, secondo lei sono elementi sufficienti da poter commentare in questo momento come temi che ci danno una misura di un ritorno verso la normalità? Sono insufficienti? Lei ne vede altri? Come la pensa? Ma io devo dire che Massimo ha messo giustamente in evidenza tutta una serie di fattori, aggiungerei anche il petrolio, una considerazione banale, però noi tutti quando sfuggito un particolare da niente, anzi. Sì, ma li ha elencati quasi tutti. Quando facciamo il pieno, insomma, ci accorgiamo ogni settimana che diciamo quella tassa indiretta è diminuita in modo sensibile. Questo è un elemento molto, molto positivo, importante in qualsiasi paese, ma soprattutto negli Stati Uniti, dove effettivamente vedere i prezzi della benzina sui livelli dell'estate scorsa, mi diceva chi conosce bene gli americani, era veramente uno shock. Quindi quello è un elemento importante per tutti, in particolare per l'economia americana, così come c'è qualche altro elemento che si legge. Ad esempio vedevo ieri che il mercato del commercial paper, quindi la carta che le aziende utilizzano per finanziare le loro esigenze a brevissimo termine, sta ripartendo anche quel mercato, in particolare negli Stati Uniti, perché è lì un modo di finanziamento del circolante molto diffuso negli Stati Uniti. Ecco, anche quello è un altro piccolo segnale, diciamo così, che i mercati monetari si stanno rimettendo in moto, e quello è un primo elemento importantissimo per tornare anche perché tanta paralisi era provocata proprio dalla interruzione dei flussi di liquidità, no? Sul mercato. Sì, abbiamo letto molte volte, ma effettivamente è assolutamente corretto, che c'è stata una crisi finanziaria che poi con il fallimento di Lehman ha portato veramente ad un credit crunch. Chi parla con le aziende sa che ci sono state delle difficoltà di finanziamento, e quindi quando ho difficoltà di finanziamento non posso far altro che ridurre le scorte, ridurre gli investimenti. I consumatori anche loro riducono le loro spese, quindi c'è stato, parlando con le aziende mi dicevano, un crollo ad ottobre e novembre della domanda che non si era mai visto così forte in così poco tempo, e quindi questo ha determinato poi la recessione che stiamo vedendo. Quindi il fatto che i meccanismi del mercato monetario stiano tornando a funzionare è un elemento molto importante. Come diceva anche Massimo, è chiaro che questo non vuol dire che da questo momento in poi i mercati finanziari tornano a, diciamo, solamente a crescere. Credo che il 2009 sarà un anno comunque con dei periodi ancora negativi, perché dobbiamo digerire l'aggiustamento ancora a ribasso delle stime di utili, dei dati macro che saranno ancora in molti casi negativi. Oggi c'è il dato dell'occupazione, immagino che sarà un dato molto forte brutto, in senso negativo. Oltretutto poi ci sono molti organismi internazionali che continuano anche ad aumentare i trimestri di recessione prevista da qui in avanti, sia per l'Eurozona che anche per gli Stati Uniti. Prima se ne prevedevano un paio, adesso invece il periodo con un segno meno sul PIL dovrebbero essere un po' di più, e quindi insomma i fattori che condizioneranno l'andamento dei mercati in tutto il 2009 saranno moltissimi, e forse qualche fattore tornerà anche a coglierci di sorpresa. Detto questo, però, le tendenze di inizio anno, come dicevo, vanno analizzate. Noi cerchiamo di coglierne anche gli spunti positivi. Uno spunto positivo è stato per esempio quello che Piazza Affari, dopo un 2008 in cui ha perso il 50% della sua capitalizzazione e quindi ha perso un po' di più rispetto a molte altre piazze europee, ad inizio anno che cosa ha fatto? È voluta ripartire meglio e ha subito focalizzato la sua attenzione su alcuni argomenti e su alcune notizie anche ovviamente che circolavano, ovviamente sempre colpa un po' dei giornalisti che le mettono in giro. In realtà sembrava ci fosse anche qualcosa di un po' più concreto. Comunque sembra che il 2009 potrebbe, anche con la crisi della finanza, tornare a mettersi in moto il risico bancario e potrebbe tornare qualche grande aggregazione bancaria. Massimo Rastelli, quella più discussa degli ultimi giorni è stata Unicredit e Mediobanca, ma ci sono ancora delle popolari che potrebbero rimettere in pista appunto iniziative di questo tipo, operazioni di questo tipo. Ci dobbiamo credere o no? Lei come la vede? Ma allora, no, ho letto con molto interesse la provocazione, direi, che proprio sul vostro giornale è apparsa il giorno dell'Epifania. Non è chiaramente un'ipotesi in assoluto campata per aria. Io partirei però da una riflessione un po' più generale. Il sistema bancario è stato l'epicentro di questa crisi, da lì è partita e in molti casi lì si è concentrata sotto forma di grossissima crisi di molti grossi istituti. Questa crisi è stata ingigantita spesso da precedenti operazioni di aggregazione mal digerite, che hanno in qualche modo appesantito, no, i conti economici e gli stati patrimoniali di questi nuovi aggregati. Quindi ipotizzare adesso, in un momento nel quale questa crisi non è ancora finita, che questi già importanti aggregati possano ulteriormente espandersi, mi sembra un po' aggressiva, nel senso che forse anche anacronistica, oserei dire. Ecco, quindi sarebbe possibile oggi fare un'aggregazione ulteriore se, per ipotesi di studio, una banca fosse rimasta al di fuori della crisi, fosse, non avesse fatto grossi investimenti o grosse aggregazioni precedenti, si trovasse oggi con free capital disponibile, beh, certamente avrebbe delle opportunità straordinarie di comprare a un terzo di quello che era il prezzo di due anni fa certe realtà. Il problema è che sono un po' tutte le banche nella stessa situazione, quindi sono un po' tutte in difficoltà, quindi trovare il campione che oggi riesce in controtendenza a fare questo tipo di operazione diventa difficile, peggio che andare di notte se queste operazioni fossero un po' per mascherare o per salvare difficoltà già presenti. Quindi io direi straordinarie opportunità di acquisto teoricamente, in pratica la vedo come una fase forse un po' prematura da analizzare. Ecco. Però non, una prospettiva non impossibile. Tra l'altro, no. Le grandi fondazioni azioniste di Unicredit si riuniscono la prossima settimana per un primo consulto su mutamenti alla governance del gruppo. Sembra che non ci sia all'ordine del giorno il dossier con Mediobanca, però insomma poi questa è ovviamente la presa di posizione formale nell'informare. È chiaro che magari questa ipotesi sul tavolo ci finisca e come. Detto questo, adesso abbiamo un minuto di tempo prima di andare con la prima pausa. Ghilotti, ovviamente mi piacerebbe sentire anche la sua sul risico bancario, però siccome non facciamo in tempo poi a fare un commento magari esaustivo da parte sua in questi ultimi secondi che ci rimangono, faccio fare la domanda al primo ascoltatore di oggi, Luigi D'Ancona, all'800240024, così magari nella seconda parte prendiamo anche come spunto le sue riflessioni per continuare la nostra chiacchierata. Luigi, benvenuto. Buongiorno. Come sta la mia Ancona stamattina? Abbastanza, il tempo sembra che si rimetta un po'. Meno male, ci dica tutto. È sempre nuvoloso. Ci dica. Allora, io volevo fare una domanda e anche una considerazione. Prima volevo fare la considerazione. Matteo Ghilotti, responsabile della ricerca azionaria di Equitasim, prima di tornare a Luigi da Roma, ce lo racconta il motivo perché avete pubblicato questo report negativo su Generali stamattina? Ma in sostanza abbiamo rivisto a ribasso le stime. Luigi D'Ancona, sì. Mi scusi, no, perché ho sbagliato città. Abbiamo rivisto a ribasso le stime 2008. È chiaro che siamo entrati in una fase in cui chiusi i mercati al 31 dicembre per soprattutto per alcuni titoli finanziari che sono molto sensibili all'andamento dei mercati azionari, partono le considerazioni degli analisti su qual è l'impatto a conto economico dell'andamento molto negativo dei mercati, quindi tutti, non solo noi ma un po' tutti, stanno facendo girare i modelli cercando di immaginare quanto peseranno le svalutazioni. Nel caso poi di Generali c'è anche una loro regola contabile per cui se un titolo azionario che hanno in portafoglio perde più del 20% per più di 6 mesi, la svalutazione viene fatta passare da conto economico e quindi ho tagliato le stime piuttosto aggressivamente perché penso che nell'ultimo quarter l'impatto negativo dei mercati sarà molto forte. In più c'è anche la questione Commerzbank di stamattina che pesa o no? C'è anche quella, la questione Commerce sicuramente, poi io ho anche ipotizzato che ci sarà una svalutazione di Telco, che sapete la holding che controlla Telecom Italia, che ha in carico le Telecom Italia a 2,08 euro, io credo, però potrei essere smentito di qui a qualche mese, che gli azionisti di Telco decideranno di portare il valore di Telecom ai valori attuali. Ma io ho ipotizzato a 2 euro perché sicuramente i valori attuali credo che non rappresentino il valore dell'azienda nel medio-lungo termine, soprattutto tenuto conto che è una quota strategica. Quindi io ho ipotizzato che venga svalutata a 2 euro Telecom Italia e quindi questo porta... E questo l'ha portato insomma ad abbassare la raccomandazione su Generali. Sì. Anche questo, quindi a ridurre le stime, riducendo le stime si riduce anche un po' il valore del titolo e quindi la mia considerazione è che probabilmente nelle prossime settimane, nei prossimi mesi il titolo sarà un po' sotto pressione per questo. Allora, citato Telco, questo ci dà lo spunto per andare al comparto delle telecomunicazioni. Luigi D'Ancona, chissà come mi è venuto Roma prima, non lo so. Buongiorno. Luigi, ci dica, adesso le faccio fare Buongiorno. La sua riflessione e la sua domanda, sì. Io volevo fare una considerazione e una domanda specifica. La considerazione è questa, no? Abbiamo visto il repentino calo del prezzo del petrolio con il conseguente calo del settore olio nel nostro mercato, no? Sì. E poi la domanda specifica, sarebbe il caso di cominciare ad investire appunto nel settore telefonico, dato ormai 3-4 anni che perde in continuazione? E poi secondo voi, secondo le vostre previsioni, degli analisti parlo, sì, appunto l'ex monopolista, soprattutto nella parte risparmio, potrebbe confermare il dividendo precedente oppure secondo voi ci potrebbe essere un taglio? Anche perché ancora Bernabé non ci dice niente in merito. Luigi, è un settore molto caldo, un'azienda in cui ovviamente si intrecciano molti interessi e qualche tema ce l'ha già anticipato anche il nostro interlocutore di questa mattina, Matteo Ghilotti. Detto questo, adesso non ho ben capito tra l'altro il legame tra il comparto del petrolio e le telecomunicazioni. Io mi attengo solamente alla seconda metà della domanda che ci ha fatto Luigi per capire se effettivamente questa crisi finanziaria che ha portato e ha trascinato a ribasso tutti i settori, perché non ha fatto nessuna distinzione, anche se poi qualcuno è stato particolarmente penalizzato come l'auto e il settore bancario, è una crisi nella quale però potrà emergere magari come settore che potrà meglio performare di altri il comparto telefonico. Prima di andare a Ghilotti sentirei anche Rastelli. Ma allora, il discorso interessante che ha fatto l'ascoltatore si riferisce alla possibilità di mantenere i dividendi ad un certo livello con i titoli sottostanti che sono crollati, no? Che è un questo tema... è un problema, diciamo, che però insegue Telecom da anni, è una questione, esatto, ecco. Che insegue Telecom che non ha nulla a che fare con la crisi. Che insegue Telecom da anni, che però adesso coinvolge anche altre società di altri settori, sempre legate ai servizi, penso all'Enel, che hanno dei rendimenti teorici sulla base dei dividendi dichiarati e promessi che stratosferici. Ecco, è chiaro che da un punto di vista finanziario il management delle società si trova a fare un ragionamento di questo tipo. Ha senso che io continui a pagare il denaro degli azionisti sotto forma di dividendi a due cifre quando i rendimenti di attività prive di rischio stanno intorno al 2%? E su questa base è anche ammissibile, se vogliamo, un ripensamento del livello assoluto dei dividendi, perché i mercati finanziari devono tendere a un certo equilibrio e a una certa razionalità. Quindi, da un certo punto di vista, abbiamo tutti accettato l'idea che le banche sostanzialmente non pagheranno nessun dividendo per alcuni problemi specifici che hanno, e stiamo cominciando a prendere in esame che anche le cedole, appunto, stellari che potrebbero essere state promesse anche soltanto 6 mesi fa, forse verranno ridotte. No, questo tra l'altro credo che sarà inevitabile. Sì, no, magari lo sapremo solamente credo con l'ondata delle prime trimestrali di marzo. Esattamente. Matteo Ghilotti, lei come la vede? Le piace il settore telefonico adesso, un settore che magari potrebbe andar meglio di tanti altri tanto bastonati, visto che il comparto delle telecomunicazioni di bastonate ne ha avute magari in precedenza, prima della crisi finanziaria, oppure stiamo alla larga anche da qui, a prescindere, diciamo, dalla società di Piazza Affari? Certo, ma è un... Devo dire che è un settore che effettivamente già si è comportato molto, molto bene, perché è stato percepito come un settore, diciamo, un po' più difensivo, e per quanto riguarda l'Italia in particolare si è notato anche un atteggiamento da parte dell'authority e quindi del regolatore della concorrenza meno severo, usiamo questo termine, che è sicuramente un elemento positivo per le aziende. Quelle finanziariamente più deboli hanno dovuto autolimitarsi, e questo ha, diciamo, migliorato ulteriormente il clima competitivo. Quindi effettivamente sia a livello di settore europeo, sia per alcuni fattori italiani, quindi questo atteggiamento dell'authority un po' meno negativo, il settore ha performato bene. La nostra idea è che, come dire, nell'immediato abbia un po' diciamo bisogno di riprendere fiato, ecco, questa è un po' la nostra idea, dopo aver performato piuttosto bene, perlomeno in termini relativi negli ultimi mesi. Ecco, sono però aziende che sono state sempre mediamente molto indebitate, in uno scenario anche di tassi che andranno ulteriormente ad abbassarsi, questo potrebbe essere un fattore che potrà giovare a questo comparto, Ghilotti? Ma è un fattore, diciamo, in questo momento è un fattore che preoccupa il mercato, chiaramente l'indebitamento, e quindi c'era il tema del dividendo. È chiaro che è difficile conciliare queste due esigenze, cioè un indebitamento elevato che deve essere abbattuto e mantenere degli alti dividendi, dove noi abbiamo messo in evidenza che perlomeno le Telecom Risparmio hanno un dividendo minimo diciamo di legge, che è attorno ai 3 centesimi, quindi perlomeno abbiamo un riferimento nel codice civile che mi dice che quello è un dividendo minimo che deve essere pagato alle Telecom di Risparmio, perché la riduzione dell'indebitamento in questo momento è la priorità numero una delle aziende che hanno una leva un po' tirata, quindi bisogna tenerlo presente quando si fanno le stime di dividendi che c'è la variabile debito. 800 24 00 24, numero verde per i vostri interventi. Adesso sentiremo Danilo da Napoli. Tra l'altro stavo anche cercando di leggere qualche messaggio al 349 238 6666, con qualcuno che ci dice che siamo un po' troppo ottimisti, ma non siete davvero mai contenti. Insomma, Alessandro da Pistoia dice: comunque state attenti, devono fallire ancora alcuni fondi pensione, deve scoppiare la disoccupazione nel mondo, deve crollare il dollaro, per questo vi reputo troppo ottimisti. E un altro ascoltatore che ci chiede: Giancarlo, in sostanza, per i suoi ospiti, i minimi sui mercati azionari sono stati toccati o no? In 30 secondi, Rastelli, perché poi dobbiamo dare la linea ai suggerimenti per chi è in viaggio, poi se sarà il caso magari approfondiremo questo discorso. Domanda interessante. Io dovessi scommettere, direi di sì, perché le borse continueranno a fare almeno una funzione, credo in maniera decorosa, cioè anticipare i fenomeni macroeconomici. Il fenomeno macroeconomico recessione è sul tavolo in maniera molto esplicita, con dati molto espliciti da parecchi mesi, probabilmente continuerà ancora per alcuni mesi, ma la mia sensazione è che i minimi di novembre siano destinati a rimanere tali. Ghilotti, lei è della stessa idea? Io sono della stessa idea, poi è chiaro che un ascoltatore dice siete troppo ottimisti. Abbiamo imparato l'anno scorso che nessuno scenario si può escludere, quindi se i governi non dovessero e le banche centrali non dovessero riuscire a contrastare queste enormi spinte depressive, neanche recessive, è chiaro che c'è uno scenario molto negativo che non si può escludere. Anch'io penso che i minimi li abbiamo già visti, magari ci torneremo vicino, magari ecco li manteremo per un po'. Quello sì, però insomma secondo voi si sono già visti? Poi ecco, non è che abbiamo la pretesa di dare la ricetta su quello che succederà quest'anno, come ho ribadito anche all'inizio, al momento ci limitiamo a commentare quello che si è visto in queste prime giornate dell'anno, poi se tutto verrà a mancare, beh, prenderemo atto anche di quello e continueremo qua da questi microfoni a commentare anche le nuove tendenze. Eccoci ritrovati a Salva Danaio per commentare le tendenze recenti dei mercati, visto che del 2008 abbiamo detto di tutto e di più, allora così abbiamo limitato l'arco temporale. Quello che si è visto in questi primi giorni dell'anno è qualcosa di incoraggiante, di positivo, ci sono delle buone notizie sulle quali il mercato potrà appoggiare prossimamente. Per la verità ce ne sono state molte ancora piuttosto negative, abbiamo visto molte società per esempio negli Stati Uniti rivedere drasticamente a ribasso le stime di crescita per i prossimi mesi, consumi molto negativi negli Stati Uniti, meglio è andata nel nostro paese. Oggi abbiamo il dato sulla disoccupazione di dicembre e si prevede un dato molto pesante. Il presidente Obama ha varato questo maxi piano di stimoli fiscali per rilanciare i consumi, chissà se tutto questo basterà. In ogni caso le borse tutto sommato dall'inizio dell'anno si stanno comportando benino. Danilo da Napoli, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno agli esperti, buongiorno agli ascoltatori. La mia domanda è questa: io, pur avendo lavorato per molti anni nel settore, non ho mai avuto la velleità di ricorrere a singoli strumenti, singole obbligazioni, singole azioni, ma ho sempre utilizzato per i miei risparmi il risparmio gestito, quindi sì, i fondi. Ah, tra l'altro poi devo dire una cosa sul risparmio gestito, bravo che me l'ha ricordato Danilo. Allora, adesso la domanda che pongo agli esperti è questa: se poniamo che qualcuno avesse avuto la fortuna o l'abilità di sottopesarsi sull'azionario nei mesi scorsi, non dico negli anni passati perché non l'ha fatto, penso che non l'abbia fatto nessuno, e si accinga invece a ritornare magari su una posizione 50-50 azionario reddito fisso, poiché si presuppone che la ripresa tutti la vedono ancora lontana, magari nel 2010, ma è pur vero che i mercati anticipano, sì, quindi magari metà 2009. Allora la domanda è questa: quale asset allocation, quale percentuale giusto in questo momento sull'azionario e su quali paesi? Danilo, è una bellissima domanda la sua. Allora, però, visto che lei mi ha stuzzicato, tra virgolette, sulla questione del risparmio gestito, quello che devo fare è ricordare su che cosa esce domani Plus 24 nel Sole 24 Ore. Torna ancora sulla pesantissima crisi dei fondi comuni di investimento, come titola oggi Finanze e Mercati del Sole 24 Ore. È una crisi, l'abbiamo raccontata tante volte da questi microfoni, da 140 miliardi di euro, e abbiamo appreso da statistiche recenti, da quello che è successo nel 2008, che l'84% dei fondi comuni italiani, ma questo lo sappiamo bene da sempre, non riesce a battere il benchmark, i parametri di riferimento. E allora domani c'è un'inchiesta esclusiva condotta proprio da Plus 24, e si apprende da questa che nella stragrande maggioranza dei casi i professionisti della gestione non sono in grado di far meglio dei mercati di riferimento, per cui si ritorna un po' su queste problematiche. Detto questo, allora vi stuzzica la domanda del nostro ascoltatore Matteo Ghilotti, Equitasim. Ma dico la mia, quindi prendendo come spunto il fatto che l'ascoltatore dice ma tendenzialmente vorrei arrivare ad essere 50% sull'azionario e 50% sull'obbligazionario, io in questo momento partirei con un tipo 25%, quindi con l'idea poi di avere una riserva di cash per poter fare media se dopo il rimbalzo che abbiamo visto nelle scorse settimane i mercati magari vivono una nuova fase di correzione. Secondo me è corretto, sarebbe corretto un approccio di questo tipo. E sulle aree geografiche, ma io non è che abbia delle preferenze particolari, sicuramente credo che se ci sarà una ripresa, questa sarà più forte nei paesi emergenti, che se non altro per motivi demografici avranno una crescita della domanda interna molto più forte rispetto ai paesi, diciamo così, occidentali, gli Stati Uniti e l'Europa, dove comunque il processo per cui i risparmiatori devono, come dire, rimettere a posto un po' i propri bilanci, e quindi non potranno consumare come erano abituati a fare, soprattutto nel mondo anglosassone, rimane vero. Quindi secondo me i paesi emergenti sono l'area che uno dovrebbe guardare, non nel senso che deve concentrare gli investimenti lì, però ecco, non una parte di quel 25%, diciamo, che va ad essere posizionato sul mercato azionario, lei lo destinerebbe anche in una quota magari importante all'ambito emergente. Questo è quello che lei tiene. Massimo Rastelli, ci dà anche lei la sua ricetta per Danilo da Napoli? Anche lei riserverebbe al momento almeno un quarto del patrimonio destinato all'investimento al mercato azionario, oppure si esporrebbe un po' di più? Ma guardi, mi sembra corretta l'analisi di Matteo Ghilotti. Se uno oggi ha avuto la fortuna / l'abilità di presentarsi, diciamo, a questo disastro del 2008 sufficientemente liquido, e quindi già ha grandissimi motivi di soddisfazione, oggi credo possa e forse anche debba giocare la partita dell'azionario. Sono d'accordo sul fatto di non giocare tutte le carte immediatamente, però un 25% oggi, veramente, quando dico oggi intendo a questi prezzi, senza stare troppo a sottilizzare, si possono mettere tranquillamente, e poi cogliere le opportunità che si creeranno nell'anno, e sicuramente si creeranno, di volatilità e di fluttuazioni, per completare l'opera, però direi sostanzialmente nel corso del 2009. Credo che più avanti sarebbe troppo tardi. Sì, se invece andiamo a ragionare sulle aree geografiche, magari, se vuole Rastelli, anche sui settori. Abbiamo fatto molto ragionamento sul comparto bancario e finanziario, sul telefonico, però ne abbiamo lasciati fuori molti altri. No, certo. Quindi no, dicevo, volevo solo concludere dicendo che la scommessa quindi sull'azionario a questo punto deve solamente avere un parametro molto chiaro, cioè l'orizzonte temporale. Se l'ascoltatore, e quindi l'ascoltatore tipo, l'investitore tipo, si pone come orizzonte temporale il mese, due mesi, tre mesi per cogliere eventuali risultati, nessuno può garantirlo. Se l'orizzonte è 12-18 mesi, lo si può fare con una, secondo me, con un timing davvero molto molto interessante anche subito. Per quanto riguarda i settori, ecco, qui vedo che c'è un po' un pensiero unico, non mi vorrei dilungare, però ho visto un po' i forum di fine anno in cui si sono stati espressi da parte di alcuni gestori le visioni, no, sul 2009, e cioè, il pensiero unico prevede questo: zero ciclici, zero finanziari, zero assicurativi, farmaceutici, difensivi e utility. Vabbè, insomma, a questo punto uno cosa deve dire? Io direi questo, ancora una volta ci troviamo di fronte a un bivio, no? Il mondo finisce o non finisce? Io credo il mondo non finisca. Se il mondo non finisce, perché dire le banche oggi sono qualcosa da evitare come la peste? Andiamo a vedere anche i valori, andiamo a vedere il fatto che ci sono banche che trattano la parte tangibile del loro patrimonio a 0,6, 0,5, 0,7. Ragioniamo su un orizzonte di lungo termine, quando abbiamo sotto mano un nome, una realtà che è leader nel proprio paese e che vale ed è valutata in questo modo, secondo me si potrebbe anche prendere in esame di investire in queste realtà. Con grande prudenza, naturalmente, certo. Con grande selezione, cercando anche di intercettare le storie che magari sono rimaste un po' più immuni dalla crisi, perché immuni completamente non ce n'è stata nessuna, ma immune completamente, ma qualcuna magari ha subito in maniera meno pesante lo strascico della crisi finanziaria. Roberto Dagliesi ci deve porre una domanda che io credo necessiterebbe di un'altra ora di trasmissione per poter rispondere, però Roberto, che le devo dire? Ci proviamo? Buongiorno, benvenuto a Salva Danaio. Buongiorno a tutti, faccio una considerazione velocissima. Grazie. Dallo scoppio della crisi si è venduto obbligazioni ed azioni per comprare titoli di Stato, e questo è successo un po' in tutto il mondo. E gli Stati si sono indebitati, poi lo stanno facendo tuttora, per finanziarie, banche, aziende private, l'auto e quant'altro, sì. E quant'altro. Questo movimento di soldi non rischia soltanto di peggiorare la crisi reale? E lo chiedo ai suoi esperti. Diciamo che il prossimo anno basti vedere che cosa hanno preventivato di emettere i governi per finanziare anche tutti i vari piani di salvataggio che stanno mettendo in campo. Andranno sul mercato con tante di quelle emissioni obbligazionarie che inonderanno il mercato di riferimento. Però, Matteo Ghilotti, ha ragione il nostro ascoltatore? Ma penso di no, perché il motivo per cui nel 29 una crisi durissima divenne la grande depressione, con la disoccupazione che arrivò al 25% e un crollo del PIL del 20%, fu proprio perché i governi non intervennero, le banche centrali alzarono i tassi anziché abbassarli, quindi diciamo questa volta si sta cercando di imparare dalla storia, dall'esperienza passata, e quindi si è agito in modo contrario. Però stiamo parlando di un secolo fa quasi. Ghilotti, secondo lei è corretto mettere sullo stesso piano le due situazioni, anche se ribadisco questa è una questione che dovrebbe essere affrontata in 10 ore, però data la situazione anche molto precaria dal punto di vista delle finanze pubbliche in cui molti governi di cui parliamo appunto si trovano? Così gliela metto là come provocazione, poi magari secondo, non è d'accordo. No, secondo me senza questi interventi staremmo molto molto peggio. Molto peggio. Basta vedere cosa è successo quando si è deciso di non salvare la Lehman a settembre, poi tutti a dire dopo 2 mesi, accidenti, se l'avessimo salvata sarebbe costata molto molto meno. Si è detto anche il processo di liquidazione ha distrutto miliardi e miliardi di dollari, perché quando uno deve vendere disperatamente degli asset certamente non riesce a strappare dei prezzi interessanti, quindi credo che è molto meglio questo sia il minore dei mali, Non sto dicendo che sia bello emettere montagne. Massimo Rastelli, lascio la conclusione a lei in 30 secondi. Sono d'accordo, assolutamente, questo è di gran lunga il minore dei mali, e faccio una considerazione: attenzione a leggere le cifre che come un blob si sentono continuamente sui mass media, avendo l'impressione di questa voragine senza fine. Attenzione che i piani di salvataggio non sono prendere dei soldi e buttarli via a fondo perduto, sono spesso per rilevare degli attivi che varranno meno di quello che si pensava in origine, che comunque gli stati non pagano 100 ma pagano un valore molto vicino al valore reale, e dove pongono delle condizioni molto precise anche per le ristrutturazioni poi delle aziende, entrano. Quindi attenzione che questi piani, quando si dice che il piano di salvataggio americano è 700 miliardi di dollari, attenzione, non significa che lo Stato americano prende 700 miliardi di dollari e li butta al macero, significa che li impegna, forse li impegnerà, e forse alla fine il netto tra quanto è stato rilevato a quel prezzo e quanto si realizzerà dagli attivi sottostanti potrebbe essere magari 100 o 150 miliardi di dollari, quindi attenzione a non pensare che sia tutto un gettare denaro pubblico a fondo perduto, non grazie, è così. Grazie a Massimo Rastelli, grazie a Matteo Ghilotti per essere stati con noi, grazie a Gaia Romani per la collaborazione in redazione, Pietro Lacorte in assistenza tecnica. Salva Danaio torna lunedì, buon fine settimana a tutti.